meta. Il rap mi sta portando lontano come una stella cometa, brillo come una sfera, animo l'atmosfera. Il rap è la mia vita, ossigeno di adrenalina, e penso prima com'era. Scrivendo mi esprimo, esce il coraggio come un sparco quando sai che sei il primo, quando sai che tanta gente vuol competere, li tieni puntati col mirino. Non bastano rime per essere figo, neanche filosofico e crederti Dio. La maggior parte è commerciale, oh mio Dio. In fondo fate cagare, qui comando io. Guarda a 250 gradi come un camaleonte, per stare tranquillo vado sopra un monte, resto arzillo per la notte. Rap è un'avventura per chi vuole botte, a te ti censura per le tue mosse sconce. Abbiamo le palle per farlo e no le spinte come questi rapper dell'anno show. Questo rap, questo è rap, niente trap, niente jazz, fatti a weed, dopo più agile Assassin's Creed, davanti al mic siamo i kids. Questo rap, questo è rap, niente trap, niente jazz, fatti a weed, dopo più agile Assassin's Creed, davanti al mic siamo i kids. Cuore sbatte ancora e sta passione non si ferma finché non muore, porta innanzi con l'amore che il cagira da te. E capozzerà ancora, perché fosse per te, fosse già morto qua fuori, senza speranze per te. Sto mezzo espressione universale, basate che mani pulite e di mani, spiragli riunite, staranno rinchiuse da un essere umano, perché forse è meglio a credere su una invece per te. Sono che massone sta prigione, non mi tene più costretta, fretta e voto, non porto ragione, non so orientare le scelte, e a leggere ogni cosa, chi sa di chi si etta, mi trovo come Atlantide, non mi se disperso. Questo rap, questo è rap, niente trap, niente jazz, fatti a weed, dopo più agile Assassin's Creed, davanti al mic siamo i kids. Questo rap, questo è rap, niente trap, niente jazz, fatti a weed, dopo più agile Assassin's Creed, davanti al mic siamo i kids. Non dirmi che tutto andrà bene, non fingere giusto per far vedere, non promettere se non puoi mantenere, non odiarmi perché questa vita non ti sta bene. Inizi col rap per poi finire nelle catene, ascolti jazz per poi odiare chi vuole reppare la storia del quartiere. Tutto questo è una ruota, prima o poi doveva accadere, e se non riesci a concludere questa carriera ti getti dal precipizio di una miniera a 200 all'ora con le carrera. Questo rap, questo è rap, niente trap, niente jazz, fatti a weed, dopo più agile Assassin's Creed, davanti al mic siamo i king.